Distorta, ritardata. Nomi e cifre, verità accidentali. Generale progresso della soddisfazione. La storia è finita, abbiamo già tutto. Meschinità, trascurabili, fondano la percezione di noi. Emozioni elementari. Dal vento, in piedi nel guado e alle spalle il futuro. Sogniamo sogni di accordatura fine. Forse un giorno suoneremo senza errori. Perfettamente intonati. Al vuoto! Emozioni elementari! Nessuno soffre più che l'anima analogica. Nessuno soffre più e l'anima si regola facilmente, facilmente. Nessuno soffre più che l'anima analogica. Nessuno soffre più che l'anima si regola.